Sì, io sono il futuro. Sappi che il futuro sta invecchiando. Sandici rugiade vanno come branchi di petterine carine, condici solti dieta, belle ossa, crampi bianchi, cartografiche, pitture con sembianze di rivolta, sembianze di rivolta. Prima di scorgere fiori gialli nell'erba sento grilli, nell'erba sento spilli, voci stanche di brillori, voci stanche di generazioni. Fragile moto di rinuncia.